momento praticamente la facciamo la corrispondenza direttamente dalla tangenziale, perché il corteo ha imboccato in modo molto deciso la sopraelevata, con molta determinazione è salito appunto sulla rampa, cercando chiaramente insomma di portarsi alle spalle tutte le guardie, le forze dell'ordine che erano qui a presidiare la zona, e si è riusciti tutti a salire. È un corteo come non se ne vedevano da tempo a Roma, davvero è l'occasione questa di dirlo, al di là di qualsiasi retorica, insomma, che un pezzo di città ce lo stiamo prendendo realmente. Il corteo, diciamo, è davvero molto molto determinato, quindi insomma, se prima dicevo nella scorsa corrispondenza che la presenza delle forze dell'ordine era abbastanza poco intensiva, diciamo, questo è perché comunque era facile immaginarlo, d'altronde le forze dell'ordine hanno pensato di presidiare tutti gli obiettivi cosiddetti, certo, sensibili, blindandoli in modo molto molto massiccio, per cui a quel punto, una volta capito l'andazzo, abbiamo il corteo, insomma, fatta una breve così voce per voce, un po' di come dire, dopo aver raccolto i pareri di un po' di compagni e di situazioni, si è deciso di imboccare dritti per la tangenziale, curvando la Prenestina, tornando indietro, finalmente, insomma, dopo un po' di giorni che ci si è trovati, questa volta, insomma, ci sei riuscito. Stazione è riuscita, si è fatto, la tangenziale è completamente bloccata, quantomeno questo tratto. Quindi ecco, fino adesso la cosa sta andando molto bene. Poco prima siamo passati lungo la Prenestina e chiaramente, insomma, abbiamo incontrato e salutato i lavoratori e le lavoratrici della Wagon Lit, non so, magari ne avete già parlato della... Sì, abbiamo accennato a questa cosa, e insomma era un po' uno dei discorsi generali che stiamo anche provando a fare questo pomeriggio, ovvero, esatto, di quanto sia, esatto, necessario interconnettere questo tipo di situazioni. Esatto, quindi ecco, in questo momento è davvero un bel vedere, insomma, questa tangenziale completamente imbandierata, Notav, con non lo so, forse sono 10.000-15.000 persone che la attraversano, che la percorrono, quindi fa rincuore davvero, insomma, questa immagine. Vedremo un po', insomma, fino a quando riusciremo a stare qua sopra e soprattutto, insomma, a quale svincolo cercheremo poi di uscire, ma se la situazione rimane quella che è, credo che ancora un bel pezzo, insomma, lo si potrà percorrere. Va bene, ok, allora a risentirci fra magari alcuni minuti, così ci racconti un po' come si evolve ulteriormente la situazione, va? Va bene, a dopo, ciao. Ciao.